L'ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. E allora, ben maschioni, siete pronti? Rapidi e veloci come sommergibili, eccoci qua a Star Trek, io sono Andrea e questa è la prima canzone, Very Very Happy, Milk and Sugar, Higher and Higher, un pezzo di musica house strepitoso che ai tempi si andava a ballare, ora purtroppo si sta a casa a fare i bravi uomini, però li ricordiamo. Higher and Higher, Milk and Sugar. Sempre qualcuno che ride, non so il perché. Comunque questo venerdì siamo partiti alla grandissima, cos'è, un modo per, diciamo così, introdurre il fine settimana che tutti voi sicuramente starete vivendo. Anzi, un saluto a chi è che si sta spostando magari in macchina e ci ascolta in real time dal cellulare. Ebbene, bene ragazzi, è finito il weekend per molte persone. Gli uffici si sono svuotati, anche le fabbriche, però mandiamo un saluto anche a tutte quelle persone che invece purtroppo non hanno questa fortuna di, diciamo così, di aver terminato di lavorare, anzi magari c'è anche chi è che lavora questa notte o semplicemente chi è che va a lavorare in questi istanti. Intanto mi sono preso una gomitata. Sono cose che capitano. Mandiamo un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte, soprattutto per noi, agli infermieri, gli infermieri volontari, ai medici della Croce Rossa, eccetera, eccetera. Un caro saluto a tutte queste persone veramente che ci permettono di vivere bene, perché no, insomma, un grosso abbraccio a questa categoria, a tutti quelli che lavorano magari questa notte. E dopo un disco di musica house, un bel brano di musica italiana, molto molto allegro. Una canzone tutta da spanciarsi dalle risate, ve la dedico. Loro sono gli Squallor, il titolo di questo brano è Casablanca. Da quando sono stato a Casablanca, grandi problemi al cuore non ho più. M'hanno levato quello che mi manca, ma non importa, tanto ce l'hai tu. Casablanca, Casablanca. si sa com'è invidiosa la Tamara. Con i clienti che gli porto via, gli sono rimasti un vigile, un barbiere e un pensionato della ferrovia. Casablanca, Casablanca, prendo quello che mi dà. Eravamo gli Squallo. Da un po' di giorni sembra veramente fuori di testa. Mi sta spuntando un coso. Che sarà? Che sarà? Forse l'operazione è andata male. Ai. A dire che sembravo la Carrà. Non ho parole, veramente. Sono 36 minuti primi dopo le ore 20, sempre in rigorosa diretta con Andrea. Vi ricordo il nostro sito www.startrekonline.org, dove potete insomma raggiungerci e farci sapere, magari ci siete all'ascolto della trasmissione. In quel sito, cioè www.startrekonline.org, potete anche leggere il mio blog, insomma, dove scrivo le mie frivolezze, le mie stupidate, così, no? Sempre in perfetta, direi, gioiosità. O giocosità, fate come volete, va ragazzi. Erano gli Squallor degli anni 70 o degli anni 80, non mi ricordo, forse 81. Il titolo di questa canzone era Casablanca e ovviamente a cantare i mitici Squallor, coloro che hanno fatto insomma della musica demenziale, un po' come anche Elio e le Storie Tese, la loro bandiera. Cantante dei Cugini Campagna aveva una testa bondo platino veramente spettacolare. Scusate, oggi sono particolarmente fuori di testa, sono molto felice, forse perché è terminata la giornata lavorativa, vai dai. Eccoli qua, belli come il sole, i Cugini di Campagna. Era meravigliosamente, sono sempre in diretta direttamente dalla mia cantina, scusate il gioco di parole. Io sono Andrea e siete all'ascolto di Star Trek Viaggio alla storia della musica, uno Star Trek speciale appunto weekend. Un saluto ancora a tutte le persone che questa sera andranno in giro a divertirsi, un saluto anche a chi è che magari sarà a lavorare, tipo anche gli amici e le amiche delle forze dell'ordine che insomma vigilano sulla nostra sicurezza ogni notte. E sono purtroppo le 20:40 minuti primi, meravigliosamente, dei Cucini di Campagna e anche per l'ultimo disco, quindi è arrivato il momento di salutarci. Io vi ringrazio per aver ascoltato la mia diretta qua su Spreaker Radio, 15 minuti di bella musica. Siamo partiti alla grande con un brano di Michael Sugar, Higher and Higher, di Musica House. Dopodiché abbiamo ascoltato la simpaticissima Casablanca degli Squallor ed ora Cucini di Campagna con Meravigliosamente, l'ultima canzone invece che ci porta proprio ai saluti finali è di Patti Bravo, L'incontro. Io vi ringrazio ancora tutti per avermi ascoltato, noi ci ritroviamo, Dio piacendo, prossimamente, e ora ascoltiamoci Patti Bravo con Incontro, canzone veramente stupenda che devo dirlo, l'ho ascoltata l'altro giorno casualmente su Radio Padania e subito mi sono innamorato di questo brano. Ciao ciao, bye bye, alla prossima. Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te, ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello, ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. Io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, ti abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita davanti a un uomo. Certo non è molto bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che anche tu sia libero. Dentro di me, dentro.